si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oddio, dovrò confessarmi oggi. Cadrà per molti un mito, per altri un pregiudizio. Cosa immaginate che faccia io a casa? Quelli che mi dicono che faccio l'esperto di sessologia mi immagineranno probabilmente una sorta di vestaglia di seta con profumi, incensi, tendaggi in velluto, pelli di pantera per terra, fumenti orientali, odalische, coppe di champagne, violinisti nascosti dietro i paraventi. Quella è la vera immagine del depravato, quale io da molti vengo raffigurato, quelle vecchie che chiamano arrabbiate: ah, basta, scriveremo ai direttori, è uno sconcio, è uno schifo. Ecco, pensate che io torni a casa, faccia questo, suoni la mia campana, mi venga a aprire il servitore nero con la pelle di pantera e il fez in testa, mi porti nel mio gabinetto di applicazioni tecniche circondato da fruste, manichini, cuoiame, pelle e via dicendo. Ecco, questa è la vita del depravato conduttore radiofonico. Di cosa ho fatto stamattina? Mi sono svegliato alle 5:30 perché devo fare le prefazioni ai vostri librettini scellerati, quelli che vi abbiamo pubblicato, che avete vinto del concorso famoso che facemmo. I quattro che hanno vinto, ho già avuto le bozze del libro e farò io le prefazioni, farò questo regaluccio. Quindi mi sono alzato presto per farlo. Per non dar fastidio, per non disturbare gli altri che stanno dormendo, mi sono spostato in cucina, dove lavoro, avendoci la rete in tutta casa. Io viaggio come nomade in casa mia, che poi è mia fino a un certo punto, per trovare angoli di tranquillità. Mi sono accorto che per terra nessuno aveva tolto le briciole della sera prima. Odio vedere le briciole per terra. Quindi ho preso l'aspirapolvere e ho pulito le briciole. Ho appoggiato il mio laptop sul tavolo di marmo della mia cucina, che è in realtà un frontale di un altare del 600, molto bello. Ci mangio sopra, ci metto il sale e ci faccio il margarita. Poi ieri sera qualcuno ci aveva mangiato le polpettine al sugo, c'erano schizzi di sugo. A me fa schifo che le donne se ne vadano di casa lasciando gli schizzi di polpetta al sugo sul marmo. Quindi ho preso lo sgrassante con l'adeguato pannicello, ho pulito il tavolo di marmo. Già che c'ero, ho dato una pulita al fornello, perché il fornello in acciaio è brutto vederlo con quelle macchie del latte schizzato del figlio che era già si era già alzato, ha fatto il latte e l'ha schizzato fuori, e via dicendo. Voi direte: ma sei pazzo, cosa fai? Un uomo che fa questi lavori? Beh, io sono un omino di casa, per necessità, non per virtù, non per elezione, non perché lo ritenga giusto, lo ritengo abominevole, ma ho sempre fatto. Ho vissuto da single per parecchi anni, quando poi non sono stato più single, mi sono congiunto con una persona che fa un lavoro come il mio, quindi metà della giornata è a disposizione la casa solamente mia, avendoci anche dei figli me ne devo occupare. Una delle cose che faccio più volentieri la sera è giocare al ristorante e cucinare ai miei figli. Cucinare mi piace, ma già cucinare è un'attività gratificante. Avete mai pulito un gabinetto? Non è una cosa molto esaltante, soprattutto quando uno ha i figli maschi piccoli. Bisogna fare un bel lavorino di acido e di materiali disinfettanti tutto intorno al water. Poi andate a scrostare un bidet, togliete i peli dal sifone del lavandino quando c'è la moglie che si pettina, lascia tutto lì, e via dicendo. Poi c'è tutta un'altra serie di operazioncine che non sono niente male. Pulire il parquet non è semplicissimo, soprattutto quando c'è un parquet abbastanza chiaro. Rifate un letto un po', rifarlo come si diceva una volta la turca è molto facile, tiri sulle coperte, dai un'assettata, no? Le lenzuola vanno sciorinate, vanno sgrullate, vanno areggiate, il materasso va mosso, c'è tutta una serie di cosine che vanno fatte. La cosa più difficile per me sarebbe entrare nel vano lavatrice. Lì ho qualche difficoltà, mi sono comprato ultimamente una lavatrice un pochino più tecnologica, ha dei programmi molto semplici anche per un analfabeta digitale come me. Digitale quando intendo la scheda che programma la mia lavatrice, poi il resto sono imbattibile probabilmente. Beh, il tema del giorno avete capito, l'omino di casa. Quanto un uomo può virilmente affrontare i compiti che per assegnazione ingiusta probabilmente appartengono al rango delle competenze femminili? Quanto un uomo in casa può dare lo straccio, può pulire per terra, può pulire i vetri? Pulire i vetri è una cosa terrificante, soprattutto quando i ragazzini ci lasciano le ditate e le nasate appiccicate sopra. Quanto quanto un uomo può fare questi umilianti ma gratificanti lavori domestici senza sentirsi meno uomo. L'omino di casa, quando è una condanna terrificante, quando una moglie arpia che ti costringe a fare queste cose e lei si sta a fare le unghie spaparanzata sul divano, è uno schiavo, è l'uomo schiavo, è giusto che muoia della sua schiavitù. Ma quando uno deve necessariamente armonizzare le esigenze del menage domestico e occuparsi anche di queste cose, si sente meno uomo? Io no, anzi, mi rendo conto che è una grande fighettata raccontarlo alle donne, le donne si inteneriscono subito, quindi c'è anche una sorta di sottofondo paraculo in questo. 800240024, confessatevi questa mattina, omini di casa. Cari amiche, benvenute al programma di Cucina Italiana Rapida. Come si preparano gli spaghetti? Vi occorre una confezione di spaghetti, sono vendute in confezioni da 500 grammi, ma se voi siete in coppia sarà sufficiente una porzione ridotta, 200 grammi. Non contateli, pesateli. Per lavare i piatti e le stoviglie che avete sporcato sia nel cucinare sia nel mangiare, occorre dell'acqua corrente. Si trova in tutte le cucine. Abbiamo nelle cucine un dispositivo che si chiama, detto genericamente, lavandino, che comprende un paio di rubinetti, quello a destra solitamente corrisponde all'acqua fredda e quello a sinistra all'acqua calda, e un dispositivo centrale di getto dell'acqua. 800240024. Questo meraviglioso signore lo abbiamo beccato questa mattina su YouTube, speriamo che anche lui non si offenda perché non ne citiamo la genealogia, ma non l'abbiamo trovato esattamente. È un signore con gli occhiali, probabilmente nella vita potrebbe essere un tecnico informatico, potrebbe essere un ingegnere gestionale, potrebbe essere un funzionario un quadro di medio livello. È single, chiaramente single, divorziato, lasciato, abbandonato o anche semplicemente zitellone, non lo so. Ha necessità di trasformare quella che è una dolorosa sua incombenza quotidiana in una sorta di manuale, una sorta di arte, una sorta di mestiere. Lui sta applicando probabilmente degli elementi tecnici proprio del suo lavoro. Infatti questo immagino sia un ingegnere gestionale, è un organizzatore comunque del lavoro altrui. Quindi lui sta stabilendo un canone, sta fissando le procedure della operazione quotidiana dell'omino di casa. Arriva meticolosamente a classificare anche il rubinetto e l'acqua calda, il rubinetto e l'acqua fredda, il lavello e via dicendo, dando per ognuno di questi oggetti di martirio quotidiano e queste gogne del ludibrio dell'uomo casalingo in passaggi necessari, in funzioni spettacolari per assolvere al suo compito. Procediamo a una rapida dimostrazione su come si gira la frittata. Occhi aperti. Ecco fatto, avete capito? Quest'oggi impareremo come si spreme un'arancia e come si ottiene da un'arancia o un altro agrume un succo denominato comunemente succo d'arancia o di limone. Partiremo oggi proprio dal gesto di stirare, gesto molto diffuso e anche molto antico, come testimoniato dai ritrovamenti archeologici in diverse civiltà ormai sepolte. Stirare è sì, un'azione infatti, che ci ho visto la conferenza stampa del sovrintendente Umberto Broccoli, che ha trovato un ferro da stiro sepolto nei fori romani. Forse a questo fa allusione il nostro amico. Guardate, lui cerca di sollevarsi dalla vergognosa incombenza quotidiana dando dignità al suo lavoro. E nel suo ordine di riferimenti professionali non trova maggior rango di dignità che appunto stabilire delle procedure. E per stabilire delle procedure, per ogni passaggio comunque lui deve attribuire un valore storico, un valore documentale, un valore funzionale. 800240024, Egidio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei è un omino di casa? Sono un omino di casa, sì, esatto. Ma per necessità, per virtù, per scelta, per schiavitù? Ma schiavitù è una parola che non va bene in questo caso, perché sono quelle mansioni che faccio molto volentieri e anzi guai chi me le toglie. Ma lei è anche una donna giù per casa oppure? Sì, ho una donna giù per casa che lavora come me. È un peruginismo questo che mi sono preso questa libertà. Sì, ci immagini, non c'è problema. Ecco, ma con la donna sì. che ha giù per casa, come vi distribuite le incombenze quotidiane? Quali sono le sue specialità? Ma diciamo che la mattina parte con il sollevamento delle bambine dal letto, quindi preparo la colazione. Nel frattempo la mamma le veste, però dal letto bisogna che le tiri giù io, perché altrimenti lei, insomma, con tutte le cose che ha da fare... Non c'è il passaggio intermedio, dal lettino al lettone, poi dal lettone subito al vestimento? No, altrimenti poi non si arriva per tempo all'asilo, di conseguenza bisogna fare una cosa celere, il sollevamento dal letto. Da lì poi viene più facile tutto, quindi colazione, preparo colazione... Al lavaggio ci pensate la sera prima? Al lavaggio la sera prima, certo, assolutamente. Sì. È razionale, certo. Giusto? Sì, assolutamente. Al vostro lavaggio però dovete provvedere la mattina, immagino. Al nostro lavaggio sì, la mattina o anche la sera, insomma, piacevole fare una bella doccia, poi andare sul divano. E non vi lavate la mattina quando vi alzate? La mattina le parti, diciamo, che possono essere... Ah, soltanto così. Parziali, non fate... No, parziali, per esatto. No, perché gli usi igienici molte volte sono anche resi necessari dalla scaletta assolutamente imprescindibile delle cose da fare la mattina. Uno a volte non ha tempo, uno dice la doccia mi ci vogliono 10 minuti, il bidet ci metto 3 minuti e mezzo, quindi quei 3 minuti e mezzo è lo spazio per fare la barba, ecco. Sì, bisogna ottimizzare i tempi nella maniera più migliore, insomma, in modo da mettere tutto insieme il puzzle per poter partire bene la mattina. Senta, le schifezze della colazione fatta, poi chi è che le rigoverna? Le rigoverno io, perché il nostro compito, diciamo, è scisso in due modi. Io mi occupo della cucina, quindi di cucinare in e anche pulire anni, naturalmente. E anche pulire la cucina, esatto. Il weekend invece, per quanto riguarda le pulizie più approfondite, io mi occupo dei bagni, dei pavimenti. Mentre la fetta invece... più golosa della torta vedo che tocca sempre a lei, complimenti. Sì, ma guardi che per me è un gusto, eh? È un gusto imprescindibile, cioè non posso assolutamente che nessuno mi tolga la... Guardi, lei ha la fortuna di avere figli maschi, sennò questo no, gusto... due femmine. Per questo, le femmine di solito la fanno nel punto giusto, i maschi preferiscono tinteggiare tutto intorno, quindi occorre... Ma facevo così fino a 10 anni fa, guardi che ho imparato a farla da seduto. No, questa è una cosa contro natura, non accetterò mai. Lo so, infatti quando mi trovo in campagna, io per lavoro... Queste sono imposizioni contro natura, l'uomo che la fa seduto... Ma mi sfogo quando vado in giro... Beh, andiamo al punto, se no cambiamo argomento adesso. Sì, hai ragione. Ecco. Allora, lei pulisce il bagno radicalmente, usando tutti i prodotti giusti, naturalmente, no? La pulita tutti, del gatto. Noi abbiamo molto calcare, quindi io prendo il mop, prima svuoto il water con il mop dell'acqua, diciamo, del sifone, sì. Cioè del sifone. Beh, questa lo svuoto completamente, quindi poi ci do l'anticalcare e poi si disinfetta con i prodotti che ovviamente non posso fare pubblicità, no, certo, ma comunque prodotti disinfettanti, decalcificanti e via dicendo. Ecco, col lavoro fatto in ginocchio, quindi andare anche dietro il water, certo. In modo che si arrivi nei punti dove normalmente qualcuno non lo fa, insomma, certo. Quindi bisogna dove allineano gli scarafaggi di solito, certo. Esatto, gli scarafaggi. Beh, sì. Passato al bagno, poi diciamo ci sono delle pulizie radicali che toccano sempre a lei, quelle cose noiosissime. Pulire le persiane è uno dei lavori più infami, anche perché si rischia la vita. Le persiane, poi spolverare i mobili in alto della cucina. Ah, dove sì, quello non lo fa mai nessuno. Non ci si arriva quasi. Non c'è Colf mai. Che lo faccia, guardi, esatto. Si trova sempre la lanugine a ditate sopra. Esattamente. Quei lavori che non si fanno magari ogni giorno, però insomma una volta. Quel grassettino volta che si condensa in cucina, anche le cucine più moderne e più sì, fantastiche. Nella cappa c'è un grassettino che non va mai via. Lei come lo toglie? Esatto. E beh, purtroppo lì bisogna agire un po' con uno sgrassante, fare agire un po' e poi dare olio di gomito, sciacquare bene con l'acqua. Insomma, quei lavori lì, insomma. Va bene, Davide, fermiamoci. Scusa, Egidio, fermiamoci Egidio, un attimo qua perché sentiamo Davide. Davide, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ha trovato ineccepibili le procedure del suo collega o ha qualcosa da aggiungere? No, io non ho parole. Pensavo di essere io il prototipo dell'omino di casa, ma impallidisco, francamente. Beh, dica allora una sua specialità, vediamo se riusciamo a sorpassarlo a sinistra. Dunque, la pulizia del forno, va, l'aiuto. Allora, io in generale sono bravissimo. Pulire il forno. Ma lei sta sfoderando delle chicche esagerate. Pulire il forno è una cosa schifosissima, non vi è mai pulito. Terrificante, devo essere onesto, il forno pochissimo, noi siamo sposati soltanto da 2 anni. Non lo fa nessuno. Una micro convivenza prima, l'ha sempre pulito mia moglie, devo dire. Io diciamo che perché la logica è questa, la divisione dei compiti è questa. Davide pensa sostanzialmente alla micro pulizia quotidiana, a far sembrare che la casa sia pulita, quando in realtà ovviamente... La pulita del gatto, la chiamiamo così noi, esatto, dalle nostre parti. Esatto. Cioè, io sono bravissimo in questo, faccio sparire... perché mi dà fastidio il disordine, cioè posso vedere come quando lei parlava delle briciole per terra... Io non so perché le donne non hanno la fobia delle briciole. Esatto, non ce l'hanno, è vero, ha perfettamente ragione. Ma è terrificante. Così come io trovo proprio una cosa che più forte di me, non tollero gli schizzi sul... come diceva prima, sui fornelli di acciaio, ecco... Gli schizzi di sugo sulla parete dietro il fornello. Queste cose non le tollero. I capelli nel lavabo non ne parliamo. E io, guardi, io sono calvo, quindi se ci sono capelli nel lavabo, la colpa è soltanto della mia dolce metà. E le assicuro, io non credevo che una donna potesse avere così tanti capelli e segnarne. Guardi, quando lei pulisce il sifone del lavandino, si accorge quanti capelli produce una donna? Ne produce circa una palla da baseball alla settimana, più o meno. È verissimo. Appunto, c'è la fortuna che io non contribuisco può essere che non sia il solo lavarsi le mani e la faccia in quel lavandino, che ne sa. Esatto. E niente, appunto, quindi io sono bravissimo nel mantenere nell'evitare di sprofondare, visto che comunque siamo entrambi medici, lavoriamo fino alle 8 di sera tutti i giorni, quindi fine settimana sì. Cioè avete le mani nella budella tutta la settimana, esatto. E fine settimana vi sollevate mettendoli nei lavandini. Grazie Matteo, buongiorno, altro meno di casa. Buongiorno Nicoletti. Guardi, allora... la concorrenza è durissima questa mattina, ma io sapevo di scoprire, guardi, gli uomini si vergognano di queste attività, non sanno quanto sia sexy agli occhi delle donne, quindi questa mattina facciamo un'operazione infame di captazio benevolenze. Dica la sua specialità. Allora, io sono ammiratissimo soprattutto di Egidio, fa delle cose che io non farei mai e mai ho fatto. Io mi occupo al 100% della cucina in casa mia e della relativa spesa. Per fare un esempio di quanto cucina male mia moglie o quanto non cucina, anche quando fai bastoncini Findus o le patatine fritte, le fai in forno. Io per contro sono... Ma i bastoncini Findus anch'io li metto in forno, si fa prima? Sì, però sono... Cioè il ragazzino, papà, voglio i bastoncini, uno li schiaffa dentro dal congelatore e si fanno. E uno fa un'altra cosa. Si nutre, ma non mangia. Sì, ma friggere, io non so come sia messo lei logisticamente, io odio l'odore di fritto. Poi devo bruciarmi veramente un quintale di incenso per toglierlo di casa. Io torno alla casa la sera, c'è la signora ucraina, bravissima e amabilissima, mi fa dei soffritti che mi impregnano anche l'anima, quindi ho questo problema. No, ma io infatti condivido assolutamente l'odore di l'odio per l'odore di fritto, infatti frigo. Diciamo la verità, così siamo però fino in fondo. Non mangio i bastoncini Findus, io non li mangerei. Io cucino bene, cucino qualunque cosa e faccio la spesa. Me ne occupo perché le poche volte che ho fatto la spesa insieme a mia moglie abbiamo discusso su cosa prendere, perché ogni cosa che prendevo mi domandava ma perché, cosa ecco, ti possiamo, serve. Ecco, possiamo anche a questo punto... sfatare un grande, cioè dire rompere un tabù che nessuno ha il coraggio di dire: le donne non sanno fare la spesa. Assolutamente fanno delle no. Spese micragnose, manca sempre qualcosa, è vero? Assolutamente. Ma poi non cioè con me se ne approfitta la verduraia, me dà sempre il decuplo di quello che serve, ma le donne manca sempre qualcosa. Cioè, il frigo è pieno, uno va a vedere mezzo pomodorino, una fetta di basilico, un fogliolino di basilico fradicio, un formaggio che cammina da solo, è un obitorio il mio frigorifero quando non faccio la spesa io. Condivido pienamente. Invece io sono come per quanto riguarda la pulizia sono sempre stato un disastro, infatti non me ne sono mai occupato, ho sempre preso prima di vivere con mia moglie, lei fa l'avvocato. Però almeno la derattizzazione del frigorifero se ne occupa? Assolutamente, al 100%. Quello devo farlo per forza io, nessuno capisce quando nel frigo ormai comincia a sentirsi aria di obitorio, quindi se ne deve occupare un uomo. Abbiamo capito, questa mattina sarà l'omino di casa Pride, uscite fuori con il vostro orgoglio, è il momento della riscossa, omini di casa, dimostriamo quello che noi siamo capaci di fare. Melog 2.0. Cari amiche, per travasare l'acqua da una bottiglia a, per esempio, un bicchiere, occorre svitare il tappo. A questo punto la bottiglia è stappata, quindi il liquido, nel caso specifico l'acqua, è licitato a fuoriuscire. Per ottenere una pulizia completa occorre lavare tutto quello che è sporco. Metallo alla base si scalda e si scalda al punto da diventare poco tollerabile al contatto. In altre parole, scotta. Abbiamo riscaldato il nostro ferro ed oggi questo sconosciuto signore che su YouTube sta costruendo il manuale dell'omino di casa sarà il simbolo dell'omino di casa Pride, l'orgoglio del casalingo. Ma devo dire che in questa nostra ricerca, in questo nostro autodafé, in questo grande coming out della nostra segreta passione casalinga, passione non è che ci dia proprio gusto, ma alla fine lo facciamo, lo sappiamo fare, abbiamo fatto necessità e virtù, troviamo pareri discordanti. Mi stanno scrivendo molte signore su YouTube, su Facebook, dicendo che sono tutte accoppiate, accompagnate, felicemente sposate, sinuosamente copulanti con omini di casa. Beh, non lo sapevamo, ditelo ogni tanto, perché dobbiamo sempre sentirci dare questa patente terrificante di discriminatori, vessatori e tiranni. Il fatto che esista l'ominitudine di casa come attività coniugale ci fa piacere. Valentina dice: viva l'omino di casa, ne posseggo uno, è un validissimo esemplare, e parla di suo marito. Olivia: io proprio il casalingo disperato invece fa disperare anche me. Questa è un po' meno fortunata. Marias Lucia: perché per i lavori di casa bisogna sempre aggiungere una connotazione sessuale, farli virilmente o femminilmente? Sì, perché un uomo fa le cose virilmente, una donna fa le cose femminilmente, non sono per l'omogeneizzazione dei comportamenti. Io virilmente sgrasso il forno, mia moglie lo fa femminilmente, infatti il forno sgrassato da me è molto meglio. Abbiamo al telefono, ricordo il numero che ho dato solo a metà, 800240024, ma sono subissato alle telefonate di omini di casa che vogliono questa mattina proclamare la loro orgogliosa giornata. Però non sapevo che gli omini di casa avessero una loro federazione, anzi un'associazione uomini casalinghi, che ha anche un sito internet www.uominicasalinghi.it, il cui presidente è Fiorenzo Bresciani. Fiorenzo Bresciani, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Non sapevo che foste associati, ma mi scrivo subito anch'io. Ma certo, dal 2003 che esiste questa associazione. Ma cosa si vince a fare essere iscritti all'associazione? Ma l'idea è nata per poter promuovere sempre più l'uomo casalingo, di non vergognarsi, di portare la bandiera in alto, sempre più far vedere che alle donne che ci siamo anche noi, non è vero che non ci siamo assolutamente. Ma io guardi, io la vedo un po' diversamente, non è che dobbiamo dimostrare alle donne che questa cosa ci fa sentire un granché bene, dobbiamo dimostrare che sappiamo farla come fossimo soldati che provvedono appunto al loro sostentamento sul campo di battaglia. Io vedo, questo è lo spirito, non lo considero un'attività di rinuncia, di rimessa, dice sono costretto a fare il casalingo, ma lo faccio, mi piace avere una casa pulita, se io fossi single vorrei una casa pulita per ricevere ogni giorno una fanciulla diversa, oggi lo faccio per la mia famiglia, ma non ci trovo nulla di virilmente inaccettabile. Tutto questo però devo dire c'è stato un cambiamento ultimamente, gli ultimi anni, perché prima del 2003, quando non esisteva questa associazione, era difficile trovare, come abbiamo potuto sentire stamane al telefono, tutti questi uomini che si occupano soprattutto dei lavori domestici. Prima era quasi una vergogna. Devo dire che la nostra associazione ha portato avanti la bandiera cercando di essere orgogliosi di saper fare i lavori domestici. Mi viene da sorridere perché adesso vediamo le donne in televisione che si occupano di pallone e, come possiamo constatare stamani al telefono, tutti questi uomini che si occupano dei lavori domestici. E c'è stato un cambiamento, no? Ma io ho visto la leggerezza con cui lo raccontano. In altri tempi, io ho in mente la commedia italiana, Alberto Sordi, schiavo di una moglie vessatrice, ma è un'infinità di luoghi comuni, quelli percorribili sull'uomo costretto a fare i lavori di casa. Un po' la casa è diversa oggi, un po' per come sono organizzate le case mediamente è un piacere, si ha a che fare con cose belle, pulite, sterilizzate, fulminanti dalle architetture ardite, metterci le mani è un divertimento. Ma perché dovrebbe essere più schifoso mettere le mani dentro un forno bisunto piuttosto che nei pistoni del motore di una motocicletta? Perché là c'è poesia e nell'altro esatto. Sistema, nell'altro luogo esiste un senso di vergogna. Quindi è d'accordo che ci debba essere una sorta di omino di casa Pride, il giorno dell'orgoglio dell'omino di casa? Ma sono d'accordissimo, no? D'accordo, d'accordissimo io. Ci deve essere l'omino per forza. Dobbiamo essere, stiamo andando avanti piano piano, vedo che le cose stanno cambiando. Io mi ricordo quando nacque sempre questa associazione, ripeto, nel 2003 non era così come adesso. Ma lei fa, però, lei è un omino di casa naturalmente, ha cominciato lei. Io da 20 anni che faccio proprio, gestisco la casa completamente, sì, sì. Ma non c'ha una moglie? Sì, certo che c'è la moglie, certo. E che fa? Un figlio di 30 anni. E lei lavora fuori, lei fa il medico. Ah, quindi la moglie fa il medico. Ma quindi lei è totalmente omino di casa, unico detentore, certo, certo. Io, infatti, del vetril. Io gli spiego subito in due parole. Avevo un'attività commerciale nel 2002, la vendetti e rimasi a casa. Rimanendo a casa in attesa di trovare una nuova sistemazione, iniziai a fare dei lavori in casa, come del resto tutte le persone fanno, no? Certo, gli ha dato gusto. E presi questa voglia, questo piacere, questa di rimanere in casa, chiese a mia moglie se era d'accordo se io facessi il casalingo e lei andasse a lavorare fuori. D'accordissima a questa soluzione. Ma lei cosa si mette? Una retina nei capelli, guanti di gomma, il grembiule? No, oppure... no, non banaliamo. No, per sapere com'è oggi... Io non mi metto nulla perché non ho accessori di vestiario da omino di casa, ma adesso mi attrezzerò. Ma esiste una sorta di abito da lavoro? L'unica cosa che mi metto è il nostro grembiule della nostra associazione. Ah, c'è un grembiule. Produce anche dei gadget. Quindi c'è un grembiule, poi cos'altro c'è? Sì, scusi, però... Sì? Sì. Lo stanno chiamando e naturalmente ha lasciato il sugo sul fuoco da andarlo a girare. Elena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ho chiamato per fare l'elogio del mio compagno. Lei è accoppiata veramente... con un omino di casa? Con un omino di casa, esatto, con un omino di casa che è bravissimo, è anche un papino di casa, è bravo anche con i bimbi, è bravo in cucina, pulisce. Anzi, dirò che io ho avuto, devo dire che c'è stato come un richiamo atavico, un senso di colpa strisciante perché mi rendevo conto che non riuscivo a stargli dietro, troppo, troppo bravo. Beh, guardi, le dico, l'omino di casa in realtà quando si applica non gli sta dietro nessuno. Il grande luogo comune è che questi siano lavori femminili, sono lavori che vanno fatti da chi li sa fare. L'uomo di solito ha un metodo diverso, la donna lo fa per condanna da millanta generazioni, quindi trascina, esatto, questa condanna che da madre in figlia si passa come una malattia genetica. L'uomo lo fa perché si diverte, trova creatività in questo. Sgrassare una piastrella è una sorta di gioco, a seguire un percorso di zozzeria finché non si vede la piastrella pulita. Ognuno di noi ha i suoi sistemi. Sandro, sì. Omino di casa. Buongiorno Nicoletti. Omino di casa e orgoglioso d'esso. La mia, diciamo, specialità sono i vetri. Nessuno mi batte. È una cosa, mia moglie va a chiamare le vicine per farglieli vedere quando io li ho fatti. E ci credo, questa è una grande soddisfazione. Non lascio un alone, è una cosa di cui vado fiero. Li pulisce esternamente e internamente, naturalmente. Certamente. Il segreto principale è che il vetro non deve essere caldo, non ci deve aver picchiato il sole. Ah, quando il vetro è in ombra, poi così l'acqua non evapora subito, poi io con una pelle di daino, che non è quella che uso per la macchina. Ecco perché la mattina quando viene la cameriera che pulisce i vetri sono sempre zozzi, li fa la mattina che c'è il sole, dovrebbe venire la sera a pulirli. Deve, il vetro, il segreto è, il vetro deve essere freddo. Ma lei cosa usa? La carta di giornale appallottata? No, rimangono i peluche. Io uso alla fine, per asciugare, una pelle di daino che uso solo per quello scopo. Ah. Non quella dell'automobile, è una pelle di daino solo per i vetri. Solo per quello. Esatto. Ma esternamente c'è un po' più di zozzeria, di solito bisogna usare secondo me pelli diverse. Praticamente io faccio in due fasi, diciamo che una spugna che leva, diciamo, il più grosso, sì. Poi ripasso, risciacquo, quando è proprio risciacquato bene allora poi con la pelle di daino do la passata finale per il risultato perfetto. Senta, adesso senza fare nomi di prodotti, usa prodotti commerciali, sì. C'è un suo segreto, un ingrediente segreto? No, è un prodotto facilmente, diciamo, reperibile sul mercato. Sì, è al bergamotto che lascia anche un buon profumo. Ah, ecco, perfetto. E dopo io risciacquo bene con acqua tiepida. Mi piacerebbe un giorno farla venire a casa mia, perché io, avendo delle necessità, avendo una strada molto trafficata sotto, ho praticamente in ogni finestra quattro vetri, perché ho due doppie finestre, quindi ci sarebbe un bel lavoro da fare. L'intercapedine poi in mezzo sempre piena di scarafaggi, mosche, guardi, animali vari. Ho io lo faccio solo sabato perché sono autotrasportatore, giro l'Italia e proprio il tempo è proprio, mi rimane il, io sabato mattina è deputato per... Avrà un parabrezza che sembrerà invisibile, sono sicuro. Grazie. Melog 2.0. La macedonia di frutta ha origini antichissime, non sto per dirlo, e entriamo nel vivo della Macedonia. Per la nostra Macedonia abbiamo scelto delle prugne, poi abbiamo scelto la banana, e per dare un tocco esotico, se vogliamo, alla nostra, al finale del nostro pasto, un ananas che preventivamente abbiamo tagliato a metà, come potete vedere. Non sarei molto d'accordo di mettere la banana nella Macedonia, che non si amalgama bene con gli altri sapori, con le altre freschezze, e poi annerisce subito. Ma ogni omino di casa naturalmente ha i suoi segreti, ogni omino di casa ha la sua possibilità di esprimersi fantasiosamente. In quello che abbiamo scoperto questa mattina è una delle attività preferite dagli uomini. I maschi bistrattati, accusati, vilipesi, irresponsabili, che vengono ogni giorno proclamati attraverso il loro comune putrido, questa mattina rivelano il loro lato splendido. Gli omini di casa orgogliosi di esserlo. 800240024, Pietro da Perugia. Sì, io sono... Buongiorno Nicoletti. Sono, ho dovuto per lavoro anche specializzarmi nel, non sapendo stirare molto bene, nel stendere bene le camicie. Che è la cosa più difficile, diciamo la verità, stirare è proprio qualcosa di molto difficile. Esatto, io faccio le pulizie da quando ho 19 anni, da quando me ne sono andato di casa, le pulizie di casa le ho sempre fatte, e stirare è stata una cosa che non mi è mai riuscita, e quindi ho adottato questi sistemi. Diciamo, i miei decenni da single mi hanno sempre visto cliente delle lavanderie, devo dire la sincera verità. Lavare e stirare l'ho sempre considerato qualcosa che andava oltre la mia possibilità di lasciarmi andare all'ominitudine di casa, però ognuno naturalmente ha le sue attitudini. Lei come fa? Come risolve? Beh, appendendo bene le camicie, beh, lavandole, chiaramente girando i pantaloni o le camicie all'inverso, e poi appendendole con attenzione, con le mollette tutte belle tese. E così almeno riescono, soprattutto d'inverno non si capisce che non sono stirate. Però si vede, fanno sempre un po' schifo via una camicia. Sì, però insomma, poi per necessità ho dovuto imparare anche a stirare un pochino, ma non è una cosa a cui mi riesce bene. Diciamo, c'è stato un periodo, ma erano anni molto sfortunati di austerità che oggi la gente rimpiange non sapendo nel vero spessore di squallore, in cui esistono camicie, dice, che non c'è bisogno di stirare, in realtà erano di plastica pura, erano di fibra sintetica, quando uno se le toglieva la notte facevano delle scintille che se uno si accingeva a un momento di intimità veniva rischiarato di vivida luce tutto il teatro della orrenda consumazione, perché erano fatte di pura plastica. Certo che non si stiravano, ma non c'era nemmeno bisogno di lavarle, erano delle camicie di forza in plexiglass o qualcosa del genere. Oggi chi ama le fibre naturali sa che soprattutto il lino e soprattutto il buon cotone necessita di un'importante stiratura. Pietro da Torino questa volta. Orribile la camicia da non stirare. Io stiro da quando avevo 15 anni, perché non soddisfatto di come si stirava a casa mia, allora mi fu detto: o impari, se vuoi le camicie stirate te le impari a stirare. Ecco, qual è il segreto? Il buon ferro a vapore? Metterci del tempo, metterci 20 minuti a camicia mediamente. 20 minuti? Allora, 20 minuti, sì, ovviamente ci vuole il tempo, io fortunatamente... Da dove si inizia a stirare la camicia? Dal collo? Dal colletto. Ah, ecco, sì. Poi i polsi? Poi no, il colletto, poi la parte, diciamo, che sta sulle spalle, sì. Poi le maniche, i polsini, però i polsini bisogna farli bene con quelle piegoline una per una, uh-huh. E poi infine il resto della camicia. Ma io sono un omino di casa... Senti, ci sono delle scuole di pensiero differenti. Io avevo una donna che le appendeva sulla stampella tutte dritte, orrendo. Una schifezza. È una schifezza, hanno piegato. Poi dopo ci sono le piegoline nel colletto. I pantaloni come li piega? Quando li stira? Con la piega in mezzo oppure non so come si chiami? Pantaloni normali vanno in tintoria perché vengono puliti. Io non ne posseggo più di pantaloni normali, ormai non da anni. I blue jeans piatti. Ah, piatti. Certo, perché i blue jeans con la piega sono terribili. Ah, ecco, ma i blue jeans nemmeno posseggo più. Io posseggo normali pantaloni di cotone estate-inverno, che non hanno nessuna velleità, ma vedo che sono due scuole di pensiero. C'è che mi li stira con la piega, che mi li stira piatti. E vorrei capire qual è la tecnica migliore. Piatti forse fanno prima. Mette con la piega. Ah, se, con la piega. Se possiedono la piega naturalmente, devono essere stirate con la piega. Sentiamo Ferdinando. Ferdinando, sì. Buongiorno. Buongiorno. Lei cosa ha da insegnarci questa mattina? Io ho un metodo per pulire la vasca. Lei ha, ha orgoglio di omino di casa, sì? Sì, sì, sì, come no. Non sono proprio un fenomeno, però... È orgoglioso. La vasca da bagno, come l'ho pulita io, no, penso che non l'ha pulita nessuno. E ma qual è il segreto? Ho usato prima la pasta abrasiva. Vabbè, la distrugge lo smalto con la pasta abrasiva. E poi gli ho dato la cera. Vabbè, mica in automobile, scusi. Però è venuta pulita, Si scivolava un po'. Ma c'avete una sugna indelebile, perché per usare la pasta abrasiva, cosa ci avete fatto in questa vasca da bagno? Sato, basta una sciacquatina. Aveva gli aloni neri, e col tempo è quasi. Beh, dipende da cosa ci si infila dentro, perché di solito l'alone nero. Forse era la qualità dello smalto che era un po' andata. E comunque sia, passando tutta la vasca con la pasta abrasiva. Sì. E viene quasi bianca. Una botta di Black & Decker gli ha potuto dare poi di lucidatore alla fine? No, beh, sempre colovata. E la cera è venuta giù. Sì, ma la prima volta che ci mette un piede dentro sua moglie, si spezza l'osso del collo, scivola sulla cera. No, si scivola un po', è certo. Si scivola un po' tanto. Si scivola un po'. No, vabbè, diventa una trappola mortale la vasca da bagno incerata, no? Però è pulita. Vabbè, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Libertà di omino di casa. Stefania. Ah, buongiorno Nicoletti, salve. Lei sta rabbrividendo ascoltando. Prego? Questo? Sta rabbrividendo sentendo il lavaggio con cera come fosse un'automobile della vasca da bagno. Beh, quello sì, va bene, mi sembra un eccesso proprio, e anche pericoloso. Comunque io volevo andare un po' controcorrente, perché sempre scherzosamente ovviamente. No, io dica sono sul serio. Contro l'omino di casa. A lei fa schifo l'omino di casa, lo detesta. No, non è che mi fa schifo, mi fa tenerezza, non voglio dire, mi fa pena. Non l'attizzerebbe mai un omino di casa, dica la verità. No, io l'uomo deve fare altre cose. Adesso mio marito sì. Non posso vederlo in ginocchio che pulisce il bagno. Certo. E allora vorrei liberare tutti gli omini di casa e deputarli al loro ruolo di questo ci fa molto male, lo sa, sapere di non essere anche oggetto erotico dopo tanta fatica. Devo dire che in parte ottenebra la felicità di questo giorno di orgoglio, però glielo lasciamo dire. Maria, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ecco, Maria messicana, gruppi messicana. Tu hai qualcosa da dire sugli omini di casa? Gli omini di casa sono una rarità in Messico. In Messico li chiamiamo mandilones. Proprio non se ne può parlare di quelle cose. Vabbè, perché il Messico, scusami, io il Messico lo considero la mia seconda patria. Mi sono laureato su un poeta messicano, ho avuto una fidanzata messicana, lo conosco abbastanza bene. Le donne le trattano come animali, scusami, lasciamelo dire. La casa grande e la casa chica, ogni uomo ha almeno due famiglie. Certo, infatti per quello, figurati se l'omino di casa esiste. Se siamo la terra dei machos, giustamente quello che hai detto tu, la casa chica, la casa grande, figurati se un uomo si mette a pulire la vasca. Sarebbero le due famiglie, la famiglia ufficiale e quella parallela. Certo. Esatto, bravo. No, non se ne parla proprio. Io ti dico la verità, mio padre non sapeva neanche accendere la cucina, non sapeva farlo, dovevo venire io ad accendere la cucina. Quindi anche te non saresti mai attizzata da un omino di casa? No, decisamente no. Non perché mi piacerebbe che magari mio marito mi desse una mano, mio marito è italiano, Sì. Però sinceramente non lo ci vedo, non so, è come... Cioè con il vucinetto in mano ti farebbe proprio passare ogni bollore, vero? Assolutamente sì. Lo so, questo è il lato doloroso, ahimè, della crociata di civilizzazione che abbiamo lanciato questa mattina. L'omino di casa, ahimè, è molto avanti, ma ancora l'immaginario erotico femminile non riesce a percepire quanto sia di splendido in questa meravigliosa attività. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.